Friuli nel mondo. 113esima trasmissione dedicata agli emigrati. Canti popolari sacri friulani. Dal primo concorso della canzone sacra friulana organizzato dalla Scuola Libera Friulana, in collaborazione con il Circolo Ciro di Perse, svoltosi a Maiano il giorno dell'Epifania, vogliamo oggi trasmettere un primo gruppo di melodie sacre friulane che esprimono con schiettezza e sincerità, attraverso testi poetici e musicali, le tradizioni e la fede del popolo friulano. Ascoltate questo canto dal titolo L'Annunziade, musicato da Donato Romano sul testo di Pietro Someda De Marco. Canta la signora Bini. Questa Madonute dal Puinte di Domenico Zanier e di Lidia Vizzini, cantata dal coro di Pontebba diretto dal maestro Piemonte, racchiude un profondo significato di mistica poesia. Tu fas grande settimane partia la nostra le parte dal paese, resta sempre a consolarnos in tai miei e tai brughi, in tai miei, in tai miei. La Violute di Tite Gallerio, musicata da Oreste Rosso ed interpretata dal coro di Porto Nogaro, diretto da Mario Del Frate, è un inno all'umiltà ed alla virtù. Dal coro di Porto Nogaro ascoltate ancora questo canto dal titolo Il Geranio, che vi riporta la visione di un Friuli d'altri tempi. Le parole sono di Tite Gallerio e la musica di Ester Olesa. Pastorelle, dimmi, dimmi, pare se ten stu tanzarine, che to pizzu le plantine di geranio verdu. Sull'albe quanti zante lo dolute per scampagni, tu la mettis, tu la bagnis, tu la tegnis pulidì. E mi sinte mi risqui, io la tempe madonni. Domande qualche dungo pastorelle, e ma stupe cusi bielle parce di stu simprino, e se venga i portunati la pluie bella retta mia, tu la amanti sempre vie, e tu i disis no si può. Ie mi sinte mi risqui. Tante di bomboli tu sarai saiezza all'ave, contentine fortunate, pastorelle tu sarai. Ie mi sinte mi risqui. Nell'interpretazione del coro di Ara di Tricesimo, diretto da Diego Morocutti, eccovi questo canto musicato da Luigi Garzoni su testo di Tite Gallerio. Vogliamo chiudere questa prima raccolta di fiori poetici e musicali friulani con La Biele Stele di Tite Gallerio e di Luigi Garzoni, eseguita dal coro di Ara Grande di Tricesimo. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.